10. La professione. L'anno del noviziato fu per me un anno di calma, se non voglio dire di morale depressione. Morto il passato, estinto l'avvenire per me. Le memorie, un vano sogno. Le speranze, un delitto. Strappata agli amici per sempre, disgiunta dai parenti che m'era lecito rivedere una sola volta al mese, straniera per più ragioni alle stesse compagne del mio carcere, io, non di meno, mi trovava, se non contenta, almeno tranquilla. Raccolto, concentrato esclusivamente in se stesso, lo spirito mio si creò poco a poco un secondo monastero dentro il monastero medesimo, dove mi trovava confinata. E nel recinto di quel recondito mio edificio, ove traeva solitaria vita, ne sarei stata più tranquilla ancora, ancor più felice coi pochi libri, con le mie meditazioni, se le visite dei parenti non m'avessero ogni volta ricordata la perduta libertà, e se le monache, col loro triviale cicaleccio, con le loro volgari gelosie, non m'avessero resa la reclusione fastidiosa. Passava molte ore nel coro data alla preghiera. La fede mi sorreggeva. Per infondere la fede a chi non l'ha, fatelo sventurato. Mi fu imposto l'incarico di ragunare le monache nel coro col suono del campanello. Me ne disimpegnai sollecitamente. Il resto della giornata me lo passai o chiusa nel mio camerino, o nella stanza del noviziato, o nel conversare con la maestra delle novizie che taciturna e paziente ascoltava la mia lettura. Quella buona donna, attempata di circa 60 anni, concepì viva affezione per me. Chiamavasi Marianna, ma io la chiamavo zia, come le giovani usano chiamare per rispetto le maggiori di età. Non so, era essa disgustata dei confessori, oppure non aveva avuto già mai trasporto per loro? È ben certo che la biasimava gli scandali e deplorava le laidezze che vi si facevano. Il suo modo di pensare, simile al mio, e l'affezione che mi dimostrò, affezione superiore a quella che la vera zia mi portava, fecero sì che a lei mi legassi coi vincoli di una filiale tenerezza. Era costume di quel monastero che nei giorni di solennità, oppure negli onomastici della maestra o della novizia, regalasse la prima alla seconda qualche oggetto gradevole. Siccome l'amica mia era molto ricca e io mi trovava in ristrettezze, non percependo pensione alcuna prima di aver fornito la dote alla professione, così ella mi faceva sempre questi doni in moneta, usando di grazia e di delicatezza impareggiabili. Né poteva soffrire che si dicesse sul conto mio la minima parola di disvantaggio, diretta o indiretta che fosse. Avendo un giorno la badessa convocate le suore a fine di rivolger loro una ammonizione intorno ai gravi disordini che affliggevano la comunità, concluse il suo discorso apostrofando le più giovani nel modo seguente. «Siete voi», disse, «voi che avete rovinata la comunità. A noi altre più anziane, ignoti erano altra volta i partiti, gli scismi, gli odi, le gelosie, le invidie. Voi, non d'altro ricche che di egoismo e di soperchieria, voi avete intromessa nel chiostro la peste della guerra civile. Togliete da questo numero la mia novizia», esclamò Marianna. «Ella ha trovato già infestato il monastero, anzi, volesse il cielo che fossero tutte come lei, docili, costumate e osservanti delle regole». Ahimè, la predilezione della maestra non faceva che procurarmi nemiche. Quella che più chiaramente mi dimostrava la sua antipatia era Paolina, posta alla testa di una consorteria di educande. Ella, per non so quale bisogno monastico di avere sempre qualcuno da detestare, le seconde perché educande e io novizia, ossia superiore a loro di un grado. All'ottavo mese del mio noviziato, quella buona maestra e compagna cadeva gravemente malata. Era destinato che di breve durata fosse la mia tranquillità. Io aveva sempre notato il colore infermiccio del suo sembiante, ma sì, io che le altre ignoravamo il genere di malattia da cui era apparentemente afflitta. La febbre ardente che la pose in letto si manifestò complicata, con sintomi sinistri. Sin dal primo giorno la malattia, benché dichiarata mortale, restò indefinibile presso i medici. Era evidente il carattere d'un morbo infiammatorio, ma peraltro esenti ne sembravano i visceri, come altresì gli organi principali del corpo. Di lì a poco perdeva la favella, per lo che, non potendo più chiamarmi a viva voce, mi invitava col gesto ad avvicinarmele. Allora, con uno strido straziante, mi indicava il suo petto, in cerca di un soccorso che non mi era dato di interpretare. Più di una volta, bramosa di indovinare il desiderio di lei, mi provai ad allargare il nastrolino che alla gola dell'inferma teneva allacciata la camicia, ma una delle sue converse, colei che stava all'origliere di guardia perenne, scostandomi ognora la mano, è larga abbastanza, mi diceva, non te ne incaricare. Una fra le altre volte che l'inferma cercò smaniante di stracciarsi la camicia sul petto, parvemi di vedervi una fascia. Che fascia è questa? Domandai alla conversa. Oh, è abituata a portarla sempre, mi rispose facendosi rossa. Ma le opprime forse la respirazione? Sciogliamola! No! soggiunse quella, respingendomi bruscamente la mano. Brigatevi dei fatti vostri! La mirai con sguardo sospettoso e supposi che qualche fine nascosto la faceva agir così, tanto più che dal seno della moribonda esalava un fetore insopportabile. Incapace di transigere coi sentimenti di umanità, volai tosto in traccia dell'infermiera, cui dissi far di mestieri avvertire il medico che desse l'ordine di togliere quella fascia dal petto. L'ordine fu eseguito, malgrado le lagnanze della conversa e degli sguardi in cagnesco che a me lanciava, dal che risultò che un orribile cancro aveva rosa a metà del seno. Il dottor Lucarelli, che in seguito la visitò, saputo il fatto, disse sdegnato alla conversa, come per aver occultato il vero male, aveva commesso un omicidio colposo. Ben frivolo d'altronde era il motivo per cui sì l'inferma che la conversa avevano fatto di quel morbo un mistero. Temeva la mia maestra che, di scoperta la sua malattia, le monache, sia per ischifo sia per timor di infezione, non avessero proibito che la sua biancheria si fosse lavata nel bucato comune. La conversa, d'altra parte, percepiva da lei un salario speciale, acciocché ne mantenesse il segreto. Il giorno appresso rese l'anima a Dio. Semplicissimi sono i funerali delle suore. Nel monastero si entra al suon di bande militari e allo scoppio di mortaletti, nell'oscura tomba, si scende col conforto di semplici formalità. Costei mi aveva tenuto luogo di madre. Nell'atto di deporre la sua spoglia mortale nella fossa, chiesi ed ottenni il permesso di darvi mano anch'io, sia per sempre benedetta la sua memoria. Per lo spazio di 2 mesi fece le veci di maestra alla stessa badessa. Ella pure nutriva grande affezione per me, lo che peraltro non fece che raddoppiare la gelosia delle giovani monache e delle educande. Al termine di questo periodo, maestra fu creata un'altra caracciolo, donna sessagenaria ma frivola, astuta, simulatrice e oltremodo fanatica per i preti. Costei, benché pienamente consapevole degli scandali arcani del confessionale e del comunichino, pure, da egregia istitutrice che la era, mi imponeva la quotidiana confessione. Il canonico, dal canto suo, mostravasi lieto nel vedermi più tranquilla di spirito, se non che, mentre io affermava non essere quella mia tranquillità che rassegnazione ad un fatto irrimediabile, egli ostinavasi a sostenere che fosse vera vocazione. Prossimo era frattanto aspirare l'anno del noviziato e il giorno della professione si avvicinava. Mi abbisognavano a quest'uopo ducati in 1.800 per la dote e 700 altri per le spese della funzione, dei quali, tanto nella prima che nella seconda cerimonia, 80 ne prendeva a titolo di dono il confessore e un'altra analoga porzione veniva riservata per complimento alle monache. Tutto insieme computato 3.000 scudi. Quanti milioni di dote al divino e umile maestro dei 12 pescatori. Era superiore alle forze della mia famiglia, la detta somma. Sperai di nuovo in qualche favorevole eventualità, ma per non lasciarmi aperto neanche questo varco, il capitolo condiscese a prendermi con minor dote, lo che mi recò sommo dispiacere, conoscendo fra le altre cose di quante e quali mortificazioni era abbeverata un'altra perché fattasi monacare senza dote alcuna. Non andò guari che ne sperimentai le amare conseguenze. Una monaca, per nome Teresa e sorella della summenzionata Paolina, si mise in capo di farmi sloggiare dal gabinetto che era mi stato ceduto dalle zie, col pretesto che alla dote mia non fosse analoga a quell'abitazione. La signora Teresa, orgogliosa e prepotente, anziché no, credeva che il suo volere non dovesse incontrare ostacolo di sorta. Udito il mio rifiuto, cominciò a guardarmi biecamente, poi mi tolse il saluto e finalmente cessò pure di parlarmi. La sua sorella mi odiò via maggiormente e le altre monache della giovane consorteria fecero a gara di imitarne l'esempio. Un giorno m'abbattei nel dormitorio con la conversa delle due sorelle. Quella cameriera ebbe l'impertinenza di fermarmi. «Avete avuto l'ardire?» mi disse, gesticolando non altrimenti che un lazzarone dell'infima classe. «Avete avuto l'ardire di negare alla mia signora il domandatovi camerino? Sapete voi che ella e le sue sorelle, avendo portato in questo stabilimento non una o due ma ben quattro doti, e non già scarse ma intere, sono padrone di questo monastero più che non è qualsivoglia altra monaca? E voi, figlia d'un soldato, venuta qui dentro senza mezzi di fortuna, senza danaro, contante, voi ammessa alla professione per atto di carità, voi ardite negare il camerino alla mia signora?» Mi tacqui. Per rispetto a me medesima, benché sapessi non essere le padrone di quella conversa che sorelle di un semplice capitanuccio di reggimento e che le Caracciolo Forino avevano, sin dalla fondazione di San Gregorio Armeno, introdotto centinaia di doti nel monastero. Però non potei trattenermi dal riferire a mia madre l'accaduto, al quale rapporto ella mi promise che avrebbe cercato di accomodare l'argomento della dote in modo più confacevole ai pregiudizi delle monache. Ne feci pure in privato qualche cenno alla badessa. «Che posso farvi, figlia mia?» rispose ella. «Dell'altrui cattiveria salvatevi pur voi, come Dio vi ispirerà. Questo soltanto posso confidarvi, che se per vivere nel mondo di fuori ci vuole prudenza come tre, qui dentro, credetemi, ce ne vuole come 30. Nel mondo le passioni, facili a dissiparsi, sono pur facili a lasciarsi maneggiare, ma chiuse, compresse, condensate dentro questo vaso angusto, esplodono talora con siffatta violenza da paralizzare l'intrepidezza ai calcoli del più insigne diplomata. A garantirvene dunque, figlia mia, vogliate pur voi armarvi di un tantino di ipocrisia? C'è mensa senza sale? Del pari senza l'ipocrisia non si campa. Seguite questo mio consiglio, ve ne troverete contenta». Col consenso dei superiori fu pregato un mio parente di rilasciare a mio favore un omologo di ducati 1000, di cederlo al monastero per compimento della somma di ducati 1800 e finalmente di obbligarsi a pagare ogni anno ducati 50 di interesse. Accomodata la faccenda così e fatti i rimanenti apparecchi, si destinò il primo giorno d'ottobre alla funzione dei miei voti, giorno anniversario della mia vestizione. Dovetti interrompere del tutto le private letture e abbandonarmi per più settimane alle pratiche di consuetudine. Nei 10 giorni che precedettero quello mi furono dati gli esercizi spirituali e il canonico predicò al parlatorio. Dicono i preti la professione essere un secondo battesimo che lava tutti i precedenti peccati. La donna che morisse al momento di pronunziare i voti monastici andrebbe di filato in paradiso, nello stesso modo che fa l'anima del bambino morto subito dopo il battesimo. Lettore, lettrice accorta, traete dai per voi solo le applicazioni pratiche di tale dottrina. Pretendono ezian Dio i preti che qualunque grazia si richieda in quel momento, il Dio è forzato a concederla. Domandai 2 grazie in quel momento: il sentimento salutare della mia vocazione monastica e il risanamento della povera Giuseppina. Non ottenni né l'una né l'altra. Giuseppina passò, di lì a poco, a miglior vita e io, col tempo, mi diedi in preda alla disperazione. Parlando delle dottrine dei confessori nell'interno del monastero, non passerò in silenzio una pratica di espiazione alla quale le monache di San Gregorio attribuiscono infallibile virtù. Avvi al lato destro del comunichino una scala magnifica di marmo chiamata la Scala Santa, che è stata l'oggetto di una bolla pontificia. Tutti i venerdì del mese di marzo la comunità intera, cominciando dalla badessa fino all'ultima conversa, è nell'obbligo di salire quella scala con le ginocchia, recitando una prece ad ogni gradino. Con l'adempimento di questa pratica si guadagna a ciascun passo una nuova indulgenza, insino a che, pervenuta all'alto della scala, sia la monaca purgata completamente da qualunque peccato, di intenzione o di fatto. E ben si intende che il direttore spirituale del confessionale, interprete della bolla d'indulgenza, non è mai lento ad applicare alla coscienza delle sue penitenti il portentoso totius quoties. Laonde, se per l'avacro della professione spariscono tutti indistintamente i peccati commessi durante l'educandato ed il noviziato, la scala santa è ancora lì per nettare più volte all'anno il velo da ogni macchiarella avvenuta dal giorno della professione in poi e sino al limitar della vecchiaia. Una parola ancora intorno agli esercizi spirituali. La missione ai voti richiede un preventivo esame. Quest'esame della vocazione lo subì dal vicario generale della Chiesa napoletana. È stato in origine istituito per esplorare il libero arbitrio della novizia, ma come tutto degenera in questo mondo, quell'esame non è più che una mera formalità. Ecco, alla sfuggita, un saggio delle oziose interrogazioni rivoltemi. Se dal Palazzo Reale vi pervenisse l'invito ad una festa da ballo e dalla superiore otteneste il permesso d'uscita, vi sentireste tentata di andarvi? Risposi subito di no. Se in questo momento almeno si presentasse una carrozza con 4 bellissimi cavalli e splendido equipaggio e foste invitata a fare una passeggiata lungo la riviera di Chiaia, ne uscireste? Risposi del pari negativamente. Se alla morte di una donna regnante venisse per avventura offerta a voi la sovranità, rinunziereste per un certo effimero e periglioso all'alto onore d'essere chiamata sposa del figliuolo di Dio? Non so però quello che avrei risposto se invece mi avesse domandata: il vostro cuore è morto all'amore. Se il vostro amante vi si buttasse ai piedi e vi giurasse di condurvi oggi stesso all'altare, esitereste ad uscire? L'interrogatorio schiva con esimia destrezza quell'arcipelago di scogli e naviga soltanto nel pelago imperturbato delle inezie. Ad evitare il caso che la donzella palesi in quell'esame l'aborrimento suo allo stato che ha poc'anzi abbracciato per violenza dei parenti e per sobillamento del confessore e per amorosa disperazione, la diplomazia clericale decreta di strappare sull'istante lo scapolare alla giovinetta che sdrucciolato avesse in simili confessioni e di sfrattarla dal chiostro nell'intervallo di 24 ore dicendole: «Vattene con la gente perduta! Indegna sei di convivere con le spose di Gesù Cristo». Questo duro insulto, che nessuno ha il coraggio di affrontare, rende vano lo sperimento del noviziato e fa sì che la donzella si trovi moralmente vincolata sin dal momento che ha preso il velo. Venne al fine l'ultimo giorno, il definitivo. La mattina del 1 ottobre presentossi primo il canonico che mi trattenne nel confessionale dalle 7 fino alle 11, ora in cui doveva darsi principio alla funzione. A poco la chiesa si riempì di invitati, ne fu stipato perfino il portico. V'erano parecchi distinti personaggi, fra i quali un principe reale di Danimarca, attualmente regnante, condottovi dal generale Salluzzi. Egli viaggiava da incognito, compiva appena il 4° lustro ed era di un'avvenenza peregrina. Tanto il generale che il principe indossavano l'abito di gala e portavano la fascia di San Gennaro. Dal cardinale Caracciolo fu cantato il pontificale, terminato il quale gli invitati rifluirono affollatissimi vicino al comunichino, ove io mi avanzava, fiancheggiata da 4 monache con in mano delle fiaccole accese. 2 di esse mi presentarono svolta una pergamena, portante in lingua latina la formula del giuramento, contornata da immagini di santi in acquerello e da indorati arabeschi. Doveva leggerla ad alta voce, ma la voce mi mancava. Incominciai a leggerla sommessamente e mi intesi dire: «Più forte!» Feci uno sforzo per alzar la voce e pronunciare i 4 voti di castità, povertà, ubbidienza e perpetua clausura. La voce intoppò e dovetti per un momento soffermarmi. In quel momento, appunto, la candela accesa che una delle monache teneva, scappatale di mano, cade in terra e si spense. Singolare augurio. Finita la lettura, vi apposi la propria firma, come fecero pure la badessa e il cardinale. Frattanto, nel mezzo del comunichino, eravi disteso a terra un tappeto. Mi fecero coricare boccone su di quello, quindi mi coprirono tutta con una nera coltre mortuaria, portante nel mezzo un cranio ricamato. 4 candelieri con torce ardevano ai 4 lati. La campana andava suonando lugubremente i tocchi dei morti, cui ad intervalli rispondevano alcuni gemiti partiti dal fondo della chiesa. Poco presso, il cardinale, voltosi verso di me, mi evocò tre volte con le seguenti apostrofe: Surge que dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus, cioè, o tu che dormi nella morte, destati, iddio ti illuminerà. Alla prima invocazione le monache mi scoprirono dal mortuario drappo, alla seconda mi inginocchiai sul tappeto, alla terza balzai in piedi e m'appressai al portello del comunichino. Un'altra frase latina, non meno mistica di quello che lo sia la precedente, mi percosse l'udito: Ut vivant mortui et moriantur viventes. La lingua morta del Lazio chiama tuttora morte la vita sociale. La lingua di Dante dell'Italia rigenerata chiama al contrario morte, la monastica inerzia. Alfine il cardinale benedisse la cocolla benedettina che indossai sopra la tonaca e poscia mi comunicò. Vennero allora a baciarmi prima la badessa, poi le monache tutte per ordine gerarchico e dopo una breve predica la funzione terminò. Allora gli invitati salirono al parlatorio dove furono serviti di dolci e rinfreschi. Per aprire la porta e farmi ricevere le solite congratulazioni si aspettò che mi fossi un poco rasserenata. Intanto, per mezzo del generale, il principe di Danimarca mi domandò se era contenta d'essermi fatta monaca. Alla mia risposta affermativa, il suo volto si compose di incredulità. Volle osservare la mia cocolla. Era di lana nera con lunghissimo strascico e larghe maniche, ultima ricordanza del monacato di Madame de Maintenon. Usano le monache offrire un mazzo di rose artificiali al cardinale e un altro a ciascheduno dei vescovi che hanno assistito al pontificale. Ne presentai pur uno al principe che accolse il dono con gentilezza. Rose morte da una morta, disse a sua altezza il mio benefattore. Andiamo, generale, rispose colui. Non reggo più nel vedere questa giovane tanto barbaramente immolata. Uscita la gente, i ferrei cancelli del monastero tornarono a stridere sui loro cardini. D'allora in poi mi separava dal mondo un baratro, secondo ogni apparenza insuperabile. Non doveva più avere né madre, né sorelle, né parenti, né amici, né sostanza alcuna. Aveva abdicata perfino la mia personalità. Eppure, nel fondo dell'animo mio, sentiva vivo e palpitante ancora il sentimento che mi muoveva a convivere, idealmente almeno, coi miei simili. Aveva fatto alla comunità il sacrificio della mia persona, ma non già quello della mia ragione, che è un diritto inalienabile. Più alta di San Benedetto imperava nella mia coscienza la voce di Gesù Cristo, il cittadino dell'universo, il distruttore delle sette, delle caste, degli associamenti parziali, il rinnovatore della famiglia, della nazione, dell'umanità, riunite in una sola legge d'amore e di conservazione. 11. La carità delle monache. Venite, scrive San Matteo, venite, benedetti di mio padre, poiché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, era senza asilo e mi avete accolto, nudo mi avete vestito, malato mi avete visitato, in prigione siete venuti da me. Allora i giusti gli diranno, Signore, quando vedutovi affamato vi abbiamo satollato? Ed il re loro risponderà: In verità ve lo dico, ogni qualvolta l'avete fatto a taluno dei piccoli miei fratelli, l'avete fatto a me. Da questi detti fu ispirato San Benedetto, allorché scrisse nella sua regola: Quanti vi chiederanno soccorso siano accolti come Cristo stesso, poiché vi dirà: Ospite fui e mi avete accolto. Le anime si schiusero alla carità, da che la carità si incarnò in Gesù Cristo. Da quel punto la beneficenza si organizza in grandi proporzioni, erigonsi ospizi, costruisconsi foresterie, si fondano ordini ospitalieri, i trovatelli, gli orfani, i malati, i poveri, i vecchi, i ciechi, gli invalidi, i naufraghi trovano speciali rifugi. La vera ospitalità, l'ospitalità dogmatizzata, l'ospitalità sociale, vede la luce sulla culla stessa del cristianesimo e si esercita a favore degli esseri deboli o infelici che il mondo pagano opprimeva o distruggeva. presso gli antichi, la donna non era altrimenti considerata che come un semplice strumento di produzione. Gli stessi filosofi la giudicarono un essere incompleto. Il cristianesimo rivela la missione di lei, che consiste nella carità e nella devozione. In Inghilterra, in Germania o presso i popoli dove il cattolicismo sollevasi a livello del secolo, la sorella di carità assiste i malati, conforta i sofferenti, prodiga loro ogni cura nelle malattie più schifose. La figlia di San Vincenzo di Paola visita dì e notte il vecchio infermo, medica le sue disgustevoli piaghe, soccorre il moribondo oppure, divenuta madre senza aver cessato di essere vergine, riscalda nel seno suo l'abbandonato bambino. Partecipi della cristiana carità si fanno pure i forestieri e gli stessi pagani. È rimasto il bel nome di Maria del Soccorso alla fondatrice di una pia congregazione di donne che si dedica al sollievo dei poveri stranieri. Le religiose betlemmite facevano voto di servire i poveri malati ancorché infedeli e, ai giorni nostri, la fame di madamigella Florence Nightingale risuona caramente, sì nell'antico che nel nuovo emisfero. Non va forse nulla di più sublime e più toccante in terra, dice un eminente filosofo, quanto il sacrificio che un sesso delicato fa della giovinezza, della bellezza, spesso dell'alta nascita, per sollevare negli ospedali quell'ammassamento di umane miserie, di che lo spettacolo è tanto umiliante all'orgoglio quanto ributtante i nostri sensi? Da questa carità, divinizzata da Cristo, inculcata da Benedetto, umanamente praticata dal clero dell'incivilita cristianità, quanto lontani sono i frati e le monache dell'Italia meridionale. Dice di loro un antico proverbio suggerito dall'esperienza: si uniscono senza conoscersi, convivono senza amarsi, muoiono senza piangersi. Pochi proverbi sono nella bocca del popolo più veraci di questo. La religione di quei tartufi non è che un oggetto di biancheria. Lo indossano e se lo levano a lor talento quando è sudicio lo mandano alla lavandaia. Chiesi l'ufficio di infermiera e lo ottenni di leggeri, poiché la maggior parte delle monache lo ricusavano. Ve n'erano talune che non eran si degnate mai di esercitarlo, come altresì ve n'erano delle altre le quali, perché affette da mali cronici, non vedevano le loro compagne da 2 o 3 anni. Nel corso della malattia e dopo la morte si suol tessere il processo della suora. Gran parte della giornata è spesa nel commentario. Si discute per qual fallo Domine Dio le ha mandato tale o tal'altra sofferenza e quindi la si colloca all'inferno o al purgatorio a seconda delle rispettive passioni. Il triennio della rigorosa badessa non aveva piaciuto alla comunità. Nelle sue veci fu a pieni voti, meno il mio, eletta la frivola maestra. Una delle precedenti badesse, che molti cordogli aveva sofferti durante il suo governo, venne in quel mentre a morire. La malattia fu dolorosa, l'agonia lunga e terribile. Affollate intorno al letto di morte della misera, le monache si dicevano ad alta voce: soffre così per cagione del suo pessimo badessato, Dio la castiga. Venne a morte una vecchia conversa, la quale aveva portato una piaga che dal tallone estendevasi al ginocchio. Mentre io la medicava, suonò il divino ufficio, m'affrettai a scendervi, ma, perché la medicatura prese del tempo, trovai la recita del coro incominciata, benché non vi salmeggiassero che 5 sole monache, essendo le altre disperse per i confessionali e per i parlatori. Fui censurata dalla badessa per quell'opera di carità, mentre alle altre, che scandalosamente stavansi infrangendo la disciplina, non ebbe nulla a dire. È usanza nel monastero che le morte, dopo vestite, si pongano in terra, reliquia pur questa delle basiliane tradizioni. 4 converse sono destinate a questo ufficio. Una di esse, demonio sotto le forme di monaca, non voleva, una notte d'estate, interrompere il riposo del proprio letto per apparecchiare l'estinta compagna. L'ammonì vivamente e s'alzò, ma afferrato il cadavere per una gamba e furiosamente trascinatolo in mezzo alla stanza, disse crucciata: «Per la Madonna, non sapevate far così?» Lo scoppio che fece il capo della trapassata nel battere sui mattoni mi fa tuttavia raccapricciare. I becchini userebbero gli appestati più carità. Ricorsi alla badessa contro quell'atto inumano. «Quest'affare, rispose, riguarda più la coscienza della conversa che il mio governo. D'altronde fanno tutte così». Questa medesima conversa menava la domenica una povera cieca alla messa. Infastidita di tale ufficio, domandò di esserne esonerata, ma, non essendo stata esaudita, un giorno precipitò la vecchia cieca dall'alto delle scale. L'infelice per quella caduta morì. Un'altra volta percosse sulla faccia un'inferma perché spesso domandava di essere voltata di fianco nel letto. Reclamai alla badessa, acciocché quel mostro di barbari avesse tutt'altro incarico, meno quello di assistere alle inferme, ma non fui ascoltata. In Napoli c'è un numero esorbitante di dame e di damigelle residenti nei differenti monasteri, conservatori e ritiri della città. Oserei dire esservi pochissime famiglie che non abbiano uno o più membri del sesso debole depositati come oggetti di mano morta in quei ricettacoli delle domestiche superfluità. Una signora, da più anni ritirata in un convento, fu colpita da apoplessia. Non rimessa interamente, un giorno stramazzò a terra. Al rumore della caduta, accorsa una giovane conversa e trovatala sola, tutta intrisa di sangue, la sollevò da terra e la ripose sul letto. Per quest'atto doveroso fu sgridata dalla superiora. Ma doveva dunque lasciarla morire in terra? Domandò la conversa. Dovevi chiamare un'altra signora ritirata. Quelle della stessa classe se la intendono meglio tra di loro. Né meno prive di misericordia e di compianto sono le esequie delle monache. Un lutto sincero, un rimpianto cordiale, il tributo di alcune lacrime sulla tomba di una defunta compagna sono in convento fenomeni più rari di quello che nel mondo lo siano le commozioni suscitate dal teatro. L'apatia, che presso gli stoici era virtù, presso le monache è effetto di calcolo e di egoismo. È uso sotterrare le morte per lo più nella mattina. Non appena il cadavere è calato nella fossa, suona il refettorio e guai alle converse se per motivo del funerale i consueti maccheroni hanno avuto soverchia cottura. Bastano questi cenni intorno alla carità per le inferme e al rispetto per le morte. Ora riferirò qualcosa di relativo ad un'altra specie di carità. Una contadina chiuse nel chiostro la propria figlia, graziosa giovinetta di 18 anni, non volendo darle per sposo il giovane che quella amava. La badessa, condiscendente verso quante avevano voto nella elezione triennale, usò massimo rigore a quella contadinella, non propensa alla schiavitù monastica e ancor meno avvezza all'atmosfera non ventilata del convento. Una sera, mentre le suore erano a cena, ella discese per attingere l'acqua. Non ritornò. Si manda in cerca di lei, non si rinviene in nessuna parte. Metà per nostalgia, metà per amoroso cordoglio, erasi ella precipitata nel pozzo. Le monache corrono alla porteria e fanno entrare degli uomini che per buona sorte estraggono viva ancora la giovinetta. La badessa, invece di profondere a quella misera i conforti che reclamava la circostanza, la confinò in un remoto gabinetto condannandola a un mese di detenzione. Ma la mattina appresso, nell'aprire l'uscio, la reclusa fu trovata morta appesa per la gola ad una fune. Per conservare intatto l'asse paterno all'erede maschio, un'agiata famiglia aveva monacato le due prime figlie e riservava alla terza la medesima sorte. La fanciulla è a quest'uopo dai genitori condotta in Napoli fin dall'anno duodecimo di sua età. E la compagna al cenobio un cane barbone, che l'ha preso da piccolo ed allevato con amore singolare. Giunto il momento del distacco, quell'amico inseparabile non sa persuadersi che conviene dalla diletta padroncina inevitabilmente disgiungersi. Più caldo nell'affetto suo che non sono gli stessi genitori, li lascia volgere il tergo a ciglia asciutte e quando nel parlatorio non ravvisa più l'oggetto della sua devozione, si mette a guaire lamentevolmente come per supplicare la giovinetta ad affrettare il ritorno. Non avendo i cani accesso nel convento, il frate portinaio lo discaccia a calci, ma l'animale, indifferente ai maltrattamenti che riceve, rapido ritorna al sito dove ha veduta l'amica per l'ultima volta e lì, sdraiato sul lastrico del portico, intirizzito dal freddo, non fa che ululare a segno da straziar le viscere. All'ora in cui si chiudono i cancelli, messo fuori della porta, passa l'intera notte a lamentarsi. Ma l'indomani, mosso il vicinato a pietà, gli reca del pane, delle carezze, il cane rifiuta e quello e queste ne cessa di piangere. Pianse senza tregua per 2 giorni e 2 notti, mentre in alto l'educanda rimaneva non meno inconsolabile. Al fine di quel dramma, tediate, le monache deliberarono di troncarne il filo sollecitamente. Il povero cane, ucciso chissà come, fu al mattino del terzo dì trovato morto, all'orlo del sepolcro vivo della sua padrona. Al tempo del debole governo di mia zia, una monaca volle congedare la sua conversa per prenderne un'altra che più le aggradiva. La conversa, che non poteva capacitarsi di ciò, si buttò più volte ai piedi della padrona, ma la trovò inesorabile. Ricorse al frate confessore di quella, ma pur senza profitto. Al penultimo giorno del servizio sparì. Si cercò dappertutto. In ultimo si scese nella cantina. Era si rannicchiata sotto un ammasso di fascine. La padrona ordinò che la fosse tirata di là sotto e a viva forza trascinata alla porteria. La poveretta, che urlava come matta, nel passare innanzi a una cappella gridò imprecando: «Signore, muoia chi ci accolpa!» Per una curiosa combinazione, 3 mesi dopo il monaco cadeva in via dei tribunali colpito da morte istantanea. 2 converse servivano la medesima padrona. Una era giovane, l'altra vecchia. La prima, piuttosto sguaiata e pazzerella, non potendo più lungamente tollerare le ammonizioni dell'attempata, concepì lo scellerato disegno di farla morire, condendole l'insalata con l'olio di verderame. L'infelice, travagliata da vomito e da acerbissime doglie viscerali, stava vicina a perire, senza che alcuna di noi ne penetrasse la causa. Per buona ventura, accortosi il medico dell'agente dell'eterico e praticata una visita minuziosa nella cucina, vi trovò l'olio divenuto verde per un pezzo di rame in esso intinto. I rimedi giunsero opportuni e la vecchia fu salva. Non rifinirei mai, se volessi qui raccontare tutti i tratti di inumanità che all'insaputa delle leggi, dentro i recinti del chiostro, impunemente si commettono. Viva tuttora conservasi nella memoria del pubblico napoletano la ricordanza dei sotterranei scoperti l'anno 1848 nel monastero dei Gesuiti, evacuato per il loro esilio, e dell'ossuario di neonati, rinvenuto in una di quelle orribili cripte. Ma io non voglio citare avvenimenti di cui pur non possa guarentire la realtà, per lo che tralascio gli ulteriori esempi e passo ad altro argomento di non minor rilievo.